falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Questa è la storia di una bella ragazza, oggi di una bella donna, di una predestinata. È la storia di una tennista, forse la più grande di tutti i tempi, o meglio, di quella che sarebbe sicuramente diventata la più grande tennista di tutti i tempi se non si fosse imbattuta in un pazzo, un tifoso, non suo. Questa è la storia di Monica Seles, e per la gran parte della sua carriera nota come la belva di Novi Sad. Cominciamo dall'inizio. Monica Seles è nata a Novi Sad, dove gioca il Vojvodina, è una città che allora era in Jugoslavia, oggi è in Serbia. Il 2 dicembre del 1973, appunto, quando nasce lei, è ancora la Repubblica di Tito. La sua è una famiglia di origini ungheresi, è la seconda figlia di Karoli e di Esther, ha un fratello maggiore, Zoltan, e nessuno nella sua famiglia gioca a tennis. Nonostante questo, lei impugna una racchetta per la prima volta a 5 anni. L'allena il papà, che per lavoro disegna fumetti per importanti giornali jugoslavi. Il papà capisce che ci sono delle potenzialità notevoli, disegna per lei delle faccine di Mickey Mouse sulle palline da tennis per renderle il tennis un po' più gradevole. Lei è una mancina, che è una benedizione per i tennisti, però è una maledizione per gli avversari, perché non sai qual è l'approccio giusto con un avversario mancino. Gioca al rovescio a due mani, però è molto magra, e allora il padre la convince a giocare anche il dritto a due mani, e questa è un po' una svolta, una cosa molto originale che le caratterizzerà tutta la carriera. Però lei è troppo brava per allenarsi con il papà e basta. Passa sotto la guida di Jelena Jencic, è un coach importante, però lei è una predestinata, non gioca per passare il tempo, lei vuole vincere sempre, cerca la vittoria con una grinta fuori dal comune. Conquista il suo primo torneo a 9 anni e a 11 partecipa all'Orange Bowl di Miami negli Stati Uniti. Vince anche quello. È il 1985. Sugli spalti c'è quello che allora viene considerato l'allenatore più vincente del tennis di sempre, Nick Bollettieri. Quello che la rendeva speciale era l'impegno che ci metteva. Aveva solo 12 anni eppure sembrava non conoscere la fatica. Era capace di provare lo stesso colpo per ore e ore, sempre con la stessa concentrazione. E questo non per un giorno, non per una settimana, ma per un mese, per mesi, se ce n'era bisogno. Bollettieri ha l'occhio lungo e convince tutta la famiglia Seles a trasferirsi dalla Jugoslavia agli Stati Uniti, che non deve essere una cosa molto semplice in quegli anni, così che Monica potesse entrare al Nick Bollettieri Tennis Academy in Florida. È una specie di collegio, le regole sono molto rigide, è un collegio nel quale hanno corso, sofferto, sudato i più grandi campioni, da Agassi a Boris Becker, Sampras, e quelle macchine da guerra piene di muscoli e di cattiveria agonistica delle sorelle William, Serena e Venus. Insomma, è un posto per forgiare campioni. Sono modi di crescere assolutamente particolari, insomma ci sono dei ragazzini che forse spinti dalla fame, forse da genitori molto ambiziosi, ma comunque in qualche modo rinunciano alla loro infanzia, alla loro normalità per intraprendere un tipo di percorso assolutamente a senso unico, cioè davanti c'è solo l'ambizione sfrenata per il successo e la competitività che fa sì che alcuni alcuni campioni diventino più campioni degli altri. Lei rimane 2 anni da bollettieri, naturalmente controllata a vista dal padre che segue i suoi allenamenti, e lo diceva prima lui, centinaia, migliaia di colpi al giorno. E lui è uno che non è che si agiti o si esalti facilmente, bollettieri, ma nel caso di Monica si sbilancia da subito, perché vede in lei le potenzialità di una campionessa assoluta. Ecco cosa dice in un'intervista di quegli anni. Pensiamo che Monica sia straordinaria, grazie alla sua cultura europea per la disciplina, al suo background, al suo rapporto unico con i genitori e con il fratello. Sono sempre restio a pensare a come diventerà un giorno, perché sai, a volte dici una cosa e poi non si realizza. Ma questa volta mi sento proprio di dire che Monica è la più straordinaria e talentuosa atleta che si sia mai vista nello sport dei giorni nostri. Eh sì, perché ci sono campioni in erba, campioni potenziali destinati a perdersi, ma Bollettieri ha già capito che lei è diversa, è esile, spara palline con una forza superiore alla media, è tutta grinta con i suoi urletti di cui parleremo più avanti, ma ha le idee chiare, una serenità di fondo che le fa sembrare tutto semplice. Il suo cuore batte 40 volte al minuto, come succede solo a gente come Fausto Coppi, ai grandi campioni. Ecco Monica cosa dice a 12 anni. Lo so che potrebbe sembrare presuntuoso da parte mia, ma voglio diventare una giocatrice di tennis professionista, una delle migliori. Se non ci riuscirò, beh, sai, vado a scuola e sono anche una brava studentessa. Che sia quello che sia, diventerò quello che potrò diventare. Non posso saperlo. I cannot say it. Ma finge di non sbilanciarsi, in realtà lei sa benissimo cosa vuole diventare la più forte tennista al mondo, ci crede veramente. I want to be the world's number one tennis player. Voglio diventare la campionessa mondiale di tennis. Penso che chiunque giochi a tennis voglia la stessa cosa, ma io ci riuscirò. Credo nel mio successo. Well, I believe in my success. Monica ha 14 anni quando gioca il suo primo torneo professionistico, anche se come amatore diventerà professionista l'anno dopo con tutto quello che comporta. È una teenager che vive già in giro per il mondo. La vita di un tennista professionista è questa: un torneo e poi si riparte e magari si cambia continente. La prima vittoria lascia il segno a Houston nel maggio dell'89, sconfigge la regina del tennis Chris Evert. Lei ha fine carriera, ma non è certo una tennista finita. La partita con la ragazzina che spunta dal nulla è una partita difficile per entrambe. Scambi infiniti, recuperi, attacchi, una partita molto spettacolare che gli appassionati di tennis ricordano ancora. Ma alla fine Monica vince. Proprio perché nella vita la simbologia conta, la vittoria di Monica con la Evert suona proprio come un passaggio di consegne, perché la regina cede lo scettro con molto fair play alla giovanissima principessa. Beh, immagino che la mia fortuna dovesse esaurirsi prima o poi. Nel corso degli ultimi 3 anni qui ho giocato dei match davvero fantastici. Oggi però sono stata battuta da un'eccellente giocatrice. Lei è molto giovane, ma credo che ne possiamo convenire tutti, è anche una grande maestra. Una cosa è perdere contro un principiante, un'altra è perdere contro una grande giocatrice. E lei gioca davvero bene ed è stata più paziente di me. Vorrei congratularmi con Monica. Congratulazioni. Elegante la Evert, come sempre. Un mese dopo, per la ragazzina di Novi Sad arriva la prima finale in un torneo del Grande Slam, al French Open, il Roland Garros. Dall'altra parte della rete c'è la numero uno del mondo, Steffi Graf, la tedesca. È un'altra incrollabile, è un'altra dura da battere. Steffi vince in 3 set la prima di una delle tantissime partite che giocherà con Monica Seles. È una rivalità che durerà per tutta la carriera di entrambe, Coppi e Bartali del tennis al femminile. Monica finisce il primo anno da professionista al numero 6 della classifica mondiale, niente male. Ma torniamo a parlare di Monica tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Monica Seles, la formidabile tennista che stava per diventare la più grande tennista di tutti i tempi. Ha sfiorato questo titolo simbolico e ha dato vita a una rivalità famosa con la grande Steffi Graf, una rivalità che in qualche modo le sarà fatale. Abbiamo lasciato Monica all'inizio del 1990, ha vinto contro Chris Evert il suo primo torneo importante, quello di Houston, è sesta nel ranking mondiale, ma il 1990 è un anno molto importante per lei. Parte con qualche tentennamento, poi inizia a infilare vittorie su vittorie. 36 vittorie, 8 tornei vinti di seguito, in Texas, in Florida, ma anche nella vecchia Europa, a partire dagli Open d'Italia. Vince un torneo a Berlino dove va a battere a casa sua la padrona di casa, Steffi Graf. È un anno importante, Monica conquista il primo titolo valido per il Grande Slam, il French Open. Ancora una volta combatte in finale contro la Graf e vince. Ormai la guerra è aperta per la vetta della classifica. Lei ha 16 anni e mezzo, è la più giovane vincitrice a Roland Garros, come ricorda nel suo Tonight Show il grande intrattenitore americano Johnny Carson. This young lady is an amazing athlete. She started playing professionally only 18 months ago. She went from 88th ranking in the world to number 3. She's also the youngest French Open tennis champion ever at 16. Would you welcome Miss Monica Seles? Ormai conosciutissima, è popolarissima, è una ragazzina che con il suo sorriso, con la sua cattiveria in campo, che contrappone invece a una movenza e a una fisicità assolutamente dolce, bene, sta smontando le certezze di tutti gli appassionati. È un po' timida, è impacciata, e poi c'è questa novità, e questa novità che in qualche modo attira ancora di più gli uomini verso i campi dove le donne giocano a tennis. Sono gli urletti, è una specie di grugnito che emette ogni colpo, ogni scambio in campo. Nessuna tennista ha mai fatto così, almeno nessuna prima di lei, e questo in qualche modo solletica le pruderie di molti uomini che sono intrigati da questo suo modo di accompagnare i colpi con questi urletti. Qui per esempio la sentiamo in campo con un'altra urlatrice che in qualche modo, diciamo, la imita, Jennifer Capriati. Se non si sentisse il rumore della racchetta da tennis sulla pallina, il sonoro potrebbe sembrare addirittura qualcos'altro. Di sicuro distrae, e infatti alcune avversarie protestano, prima tra tutte Martina Navratilova, forse anche perché turbata per vari motivi da questi urletti della giovane e bella Monica, ma la Navratilova soprattutto dice che è scorretto perché quei rumori le tolgono concentrazione. Però i giudici non sanno cosa fare, non si può proibire a qualcuno di accompagnare il colpo, e poi questo fa parte del gioco di Monica. E un giornalista di recente le ha chiesto se fossero studiati, se si fosse mai allenata per farli. No, non ho fatto nessun allenamento per quello. Ho iniziato a giocare a tennis quando ero una bambina di 6 anni e ho iniziato a grugnire fin dal primo giorno perché ero molto piccola. Ero sempre sul lato corto e così concentravo tutta la mia energia su quella palla. Così ho cominciato a fare quei versi sin dai tornei junior, continuando in quelli agonistici, molto prima che qualche altro giocatore iniziasse a lamentarsi. L'unica differenza era che a quel punto io ero la campionessa numero 1 al mondo. Gli americani chiamano quei versi grunting e in Italia un mito del giornalismo sportivo Gianni Clerici inventò un neologismo fino dalle prime apparizioni di Monica Seles. Il neologismo era un termine particolare che ci ricorda proprio Clerici. Sì, una cosa che io con un neologismo ho chiamato grantolo, sì, è grunito più rantolo. Dopo la Seles hanno iniziato moltissime donne, ancora più che gli uomini. C'è un'infinita quantità di donne che usano questo, lasciamelo chiamare grantolo, che è in fondo contrario a una delle più antiche tradizioni del tennis, come il silenzio. Regolari o no, questi grantoli, come li chiama Clerici, attirano ancora di più l'attenzione su questa ragazzina che sta procedendo imperterrita verso la vetta della classifica mondiale e le avversarie cadono a una, la Graf, la Navratilova, la Sabatini e anche la piccola spagnola Arantxa Sanchez. Nel 91 la belva di Novi Sad è uno schiacciasassi, vince gli Australian Open all'inizio dell'anno e a marzo il suo obiettivo principale è raggiunto, perché scalza dalla vetta del mondo proprio Steffi Graf, diventa il numero uno della classifica mondiale, difende il titolo in Francia, salta Wimbledon per un problema fisico e probabilmente la sosta le fa bene perché torna e vince gli US Open, annienta la Navratilova e conquista il terzo titolo dello Slam, è sempre più solidamente prima nel ranking. Quindi quel 91 lo chiude con 10 tornei vinti su 16 disputati e tutti gli altri è arrivata comunque in finale. Come desiderava a 9-10 anni, è la giocatrice più forte del mondo. Il 1992 è ancora un anno d'oro per Monica, niente nessuno sembra in grado di fermarla perché rivince gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open, arriva addirittura in finale per la prima volta a Wimbledon, però sull'erba inglese la Graf è più forte, la batte in due set, anche perché lei deve giocare in modalità silenziosa perché nel tempio del tennis i compassati spettatori protestano contro i suoi grugniti e naturalmente anche le avversarie, è costretta a giocare in silenzio. Bene, malgrado questo incidente di percorso, le statistiche dal febbraio del 91 al febbraio del 93 raccontano due anni di dominio, 22 titoli vinti, 33 volte in finale su 34 tornei disputati, quindi 93% percentuale di vittorie, 98 se si contano solo gli incontri in gare del grande slam. Monica vince per la forza dei suoi colpi, ma anche per la sua forza di carattere, perché è decisa, è aggressiva, è spietata, come ricorda Annabel Croft, che è un ex tennista, commentatrice televisiva inglese. Monica Seles è diventata famosa improvvisamente ed è stata l'atleta psicologicamente più forte che si sia mai vista. Dal fondo del campo era incredibilmente spietata. Riusciva a cogliere l'occasione in alcuni punti dove lei sentiva che l'avversario avrebbe avuto difficoltà con la sua accelerazione e giocava in maniera più cauta nelle situazioni sotto pressione. E allora la sua forza esplodeva. L'inizio del 93, l'anno che le cambierà la vita, è contrassegnato ancora dalla rivalità e dal confronto costante. Steffi Graf, Monica Seles. Monica continua a vincere, le poche volte che perde, perde proprio con la Graf, che non ha certo rinunciato a riconquistare la vetta della classifica. Intanto Monica vince in Australia, in Francia, ancora gli US Open e batte a Chicago quella che a volte cerca di essere il terzo incomodo, Martina Navratilova. Quello di Chicago è l'ultimo trofeo che vince prima del torneo di Amburgo in Germania, l'ultima coppa della sua vecchia vita, quella prima di incontrare l'uomo che cambierà per sempre la sua vita, Günther Parke. Ne parliamo tra poco. Yeah. Falco e Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Monica Seles e la storia del suo incontro col destino, perché lei sta per diventare quella che potrebbe essere la miglior tennista di sempre. Viene chiamata la belva di Novi Sad, ma in un'altra belva lei sta per imbattersi, una belva che la trasformerà in una ragazzina fragile e insicura, proprio lei, abituata a vincere e a combattere. E poi c'è la sua battaglia per tornare in campo, per sconfiggere le conseguenze psicologiche del suo tremendo incontro con Günther Park. L'abbiamo lasciata nel 1993, altro anno totalmente di dominio, che comincia con lo stesso refrain, vittorie e confronti appassionati con quella che rimane la sua unica vera rivale, Steffi Graf. E l'incontro con il destino, quello che le cambia le carte in tavola, avviene il 30 aprile di quell'anno. Lei sta disputando i quarti di finale del torneo di Amburgo in Germania. Sta battendo la sua avversaria, Magdalena Maleeva. Il punteggio è 6-4-4-3 a favore di Monica. Le giocatrici sono al cambio di campo, sono sedute sulle panchine. All'improvviso, dalle tribune alle spalle di Monica, un uomo si sporge e la colpisce con un coltello alla schiena. Ero seduta, piegata in avanti, quando sentii un dolore acuto nella mia schiena. Allora mi voltai e vidi questo tizio con il coltello e pensai: oddio, questo tizio mi ha accoltellato alla schiena. Poi c'è tanta confusione, non so cosa succede. Vedo quelli della sicurezza che tengono giù una persona. Günther Park, uno squilibrato di 38 anni, la colpisce tra le scapole con un coltello da cucina. La sua fortuna, la fortuna di Monica, che nel momento della coltellata è leggermente chinata in avanti perché sta prendendo una bottiglia d'acqua, perché la lama è lunga 16 centimetri, ma penetra nella carne solo per un paio di centimetri, le sfiora la colonna vertebrale, non arriva al polmone, ma lei quasi non si rende conto di ciò che accade. L'uomo teneva un coltello con entrambe le mani, lo stava alzando. Mi ritrovai un metro oltre la sedia sulla quale mi stavo riposando, al cambio di campo. Non so ancora come riuscii a buttarmi a terra mentre lo guardavo. Era lo stesso che avevo visto all'hotel, lo stesso che seguiva tutti i miei allenamenti. Una guardia gli balzò addosso, lo bloccò con una presa alla gola. Madeleine Van Zeulen, la fisioterapista, mi abbracciò, spinse qualcosa contro la mia ferita. Mio fratello Zoltan apparve di fronte a me. Ero stata pugnalata. Il pubblico è attonito. Nelle immagini si vede l'avversaria, la Maleeva, è seduta sulla sua panchina con il volto sconvolto. Comincia a piangere piano. Ho sentito un rumore, qualcosa così, ma al tempo non mi ero accorta che ci fosse un coltello, del sangue. Pensavo solo che qualcuno l'avesse colpita e che lei fosse caduta. Non sapevo che fare, non sapevo che fosse successo. Avevo paura anche un po' per me stessa. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Nobody knew what's going on. Ci vorranno più persone della sicurezza per portare via Günther Park, che ancora sembra indemoniato. Viene arrestato, al processo, le ragioni dell'aggressione le racconterà lui stesso. Sono un grande tifoso di Steffi Graf. Ho più volte mandato a sua madre 100 marchi perché in occasione dei suoi anniversari le acquistasse dei fiori. Nel 1990, quando Steffi era numero uno e perse in finale all'Open di Germania dalla Seles, il mondo parve crollare intorno a me. Così decisi di punire la Seles. Ad Amburgo mi decisi dopo 3 giorni di appostamenti, nel momento che mi parve più propizio. Non l'ho colpita con tutta la mia forza. Non volevo ucciderla, ma solo ferirla. Non sarebbe mai più stata in classifica davanti alla mia Steffi. È incredibile come una persona disturbata mentalmente racconti con naturalezza una cosa che a lui sembra normalissima, cioè quella di uccidere una persona, comunque di renderla innocua semplicemente per favorirne un'altra. Beh, secondo il processo viene definito un pazzo isolato. Gli viene riconosciuta la totale infermità mentale, viene condannato a due anni e la pena viene sospesa e l'obbligo è quello di sottoporsi a cure psichiatriche. In sostanza non fa che pochi giorni di carcere, sembra essere in Italia, ma c'è una seconda ipotesi dietro a questo delitto, un'ipotesi che non è mai stata approfondita fino in fondo dagli acquirenti, perché è una pista legata alla richiesta di Monica di diventare cittadina americana e di alcune sue dichiarazioni contro il leader serbo Milosevic, uno che non amava scherzare e che non era certo uno soft. Sentiamo ancora Gianni Clerici che raccoglie le confidenze del padre di Monica, Caroli. Il papà Caroli mi disse una volta che nel tentato omicidio di Gunther Parke, omicidio poi considerato con una benevolenza che io direi davvero religiosa o eccessiva da parte dei giudici tedeschi, perché questo signore Gunther Parke lo possiamo trovare ai giardini domani mattina se facciamo una passeggiata. Ecco, detto ciò, il papà mi aveva detto: ma guardi che dietro a ciò ci potrebbe essere qualche cosa di diverso. E mi ricordo che io gli dissi: ma qualcosa di diverso di che natura? E dice: perché più volte quando siamo andati a stare in America, soprattutto Monica si è espressa senza eccessiva attenzione, più che negativamente, insomma, chiamandoli assassini nei riguardi di Milosevic e dei suoi uomini. Stand up and fight for your name, we are right, we must strike the lies that are spread like disease. Pazzo solitario o mano armata dei serbi di Milosevic, forse non lo sapremo mai, ma Parke comunque riesce nel suo intento dichiarato. Monica finisce in ospedale, Steffi Graf corre a trovarla, però Monica perde in fretta il suo primato in classifica, la Graf si riprende il suo numero uno. La ferita non è grave, in due settimane Monica guarisce almeno fisicamente, però non torna a giocare perché lo shock è troppo forte. Ha perso sicurezza, Monica Seles ha paura, decide di non tornare più in Germania anche perché il suo aggressore, abbiamo sentito, è a piede libero. Intanto il padre si ammala di cancro, morirà 5 anni dopo. Ecco il ricordo di Nigel Clark, famoso giornalista inglese. Dal momento in cui fu accoltellata fino al momento del suo ritorno passò un tempo immenso. Questa giovane ragazza divenne ricurva, quasi invecchiata, nervosa, taciturna, introversa, impaurita. Distrusse quasi completamente la sua personalità. Bisogna anche dire che a questa demolizione emotiva, oltre la coltellata, partecipano anche le colleghe di Monica che gliene infliggono un'altra, una coltellata di un altro genere, perché le voltano le spalle in maniera quasi unanime, e sentiamo come e perché proprio dalla voce del mitico Gianni Clerici. La povera Monica, che poi era stata praticamente abbandonata da tutte le sue coetanee, che questo lo ricordo con certezza, avevano addirittura votato contro la concessione della sua posizione di classifica finché non fosse ritornata in campo. L'associazione delle donne, Women Tennis Association, per solito concede in qualche caso particolare, che sia una malattia o che sia un parto, concede la conservazione della classifica ad una che non può giocare. Per conto mio, Seles non si capisce perché non avrebbe dovuto rimanere la prima, come lo era già diventato. E beh, le coltellate arrivano nella vita, non solo quelle provenienti da una lama. Passano 2 anni e mezzo da quella aggressione e intanto tutti aspettano che Monica ritorni. Lei è incerta, non conferma, non smentisce, ci sono voci che la danno vicina al ritiro, perché nessuno lo sa, o meglio, piano piano il mondo comincia a capire che la ferita psicologica è molto più profonda di quella fisica. La belva di Novi Sad non c'è più, al suo posto c'è una ragazzina spaventata, insicura. È un periodo buio che è passato nel tentativo di ricostruirsi e nel frattempo, tra l'altro, deve anche assistere alle cure a cui è sottoposto suo padre. Sviluppa addirittura un disturbo alimentare, la bulimia. Alla fine ci torna sui campi da gioco e la convince la sua vecchia avversaria Martina Navratilova, che la trascina in un incontro esibizione a Atlantic City. Ma sono passati già 28 mesi da quella aggressione. Negli ultimi anni sono stati molti quelli che mi hanno sostenuto e vedere tutta questa gente, rivedere voi, i miei tifosi, sentirmi elettrizzata per la folla che c'è, questo è ciò che mi è mancato di più. E riuscire a fare punto, a colpire ancora e continuare. Volevo solo ringraziarvi tutti per il vostro supporto nel corso di questo lungo tempo nel quale non potevo vedere la luce alla fine del tunnel. Ma se tutto va bene, i prossimi anni saranno decisamente migliori. Welcome back. Oh, thank you. Monica è tornata, ma i giornali non perdono un secondo a porre l'accento su quanto sia ingrassata. Lei cerca di nascondere i suoi disturbi alimentari, comincia la seconda parte della sua carriera. Torna a vincere, ma non è più quella di una volta. È sempre molto brava, però non è imbattibile, non è più la belva di Novi Sad. Al suo rientro la federazione le assegna il ranking di numero 1 bis, cioè diventa la seconda testa di serie. È un modo per aggiustare, diciamo, lo sgarbo che le era stato fatto immediatamente dopo il suo ferimento. E anche lì ci sono polemiche. Gioca i primi 6 tornei con questo bonus. Nel 94 diventa cittadina americana, intanto partecipa alla Fed Cup, che è la Coppa Davis femminile, ne vince 3. Vince anche un bronzo alle Olimpiadi di Atlanta e nel 96 vince l'ultimo trofeo del Grande Slam, il 9, sono gli Australian Open. Nello stesso anno però perde al secondo turno a Wimbledon e i giornali inglesi non perdono l'occasione, visto che non l'hanno mai amata, di scrivere che Monica assomiglia a un lottatore di sumo. E allora mi resi conto che nel corso del tempo che ero stata lontana dallo sport, una nuova generazione di atleti era nata. E la nuova generazione era fatta di atlete più alte, molto più potenti e ovviamente più attraenti. Non bastava giocare bene, si doveva anche essere belle. E questo mi faceva andare su tutte le furie. Non era questo che mi aspettavo di diventare. E mi dissi, ho bisogno di guardare dentro me stessa, di farmi un'idea del mio rapporto con il cibo. Per me era una cosa che ovviamente aveva a che fare con la morte di mio padre, con il mio accoltellamento, con la mia stessa identità. Monica non tornerà mai più a occupare il posto numero 1 del mondo. Gioca la sua ultima partita ufficiale a Parigi a Roland Garros nel 2003. Rimane in un limbo durato 5 anni prima di annunciare il suo vero ritiro. Solo lontano dai campi da tennis Monica riesce a affrontare i suoi problemi psicologici e soprattutto questo disturbo alimentare che ha segnato la seconda parte della sua carriera. Si ripresenta nel 2008 e visibilmente dimagrita e partecipa a un programma televisivo americano, Dancing with the Stars, che sarebbe il nostro Ballando con le Stelle. Avevo partecipato a un programma TV, Ballando con le Stelle, e l'attenzione della gente era tutta concentrata sul peso che avevo perso. Non interessava a nessuno che sapessi o meno ballare. Lì ho capito che la mia esperienza avrebbe potuto essere utile ad altre ragazze. Nel 2009 esce la sua biografia, si chiama Getting a Grip, racconta tutta la sua esperienza, compresa la sua bulimia, e inizia a impegnarsi come testimonial in giro per il mondo proprio nelle campagne contro l'obesità e contro i disturbi alimentari. Nella classifica delle migliori 100 giocatrici di tutti i tempi, Monica è solo al 19° posto. Avrebbe potuto essere in cima se non fosse stato per Gunther Park, e sentiamo cosa ne ne pensa a questo proposito Gianni Clerici. Il ricordo è un ricordo affascinato di qualcuno che in fondo è stata la prima, io chiamo quadrumane, ma è un termine sbagliato, ma nessuno ha mai inventato un neologismo come uno che ho addirittura inventato io per definire bimane chi giocasse con due mani. Il fascino di una donna che ha portato assolutamente qualcosa di nuovo nel mondo del tennis, e lo ha portato proprio con un'aria da bambina. È stata qualcosa di nuovo nel mondo del tennis. Quando si chiude una carriera e si apre una nuova vita, per alcuni la prima vita. La vita di Monica è divisa in due, perché da un certo punto di vista ha fatto buoni investimenti, ha diversi ristoranti, ha una squadra di calcio, ha lanciato un marchio di vodka, uno di profumi, quindi una bella donna realizzata, con un patrimonio stimato di 145 milioni di dollari, quindi niente male direi. D'altra parte Monica è quella e rimarrà sempre che doveva arrivare al numero uno e che per colpa di una follia e di una coltellata è rimasta al numero 19, lei che avrebbe potuto essere la migliore. Quella di Monica Seles è solo una delle storie che noi vogliamo raccontare, storie di persone più note o meno note, ma comunque di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e volare in alto, lasciando un segno del loro passaggio. Se volete che noi ci racconti qualche altra storia che vi interessa, fatelo e scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.